femminismo. Frequenze sui generis. E rientriamo dagli studi di Radio Città Fucico, un buon pomeriggio da Anna e benvenuti a questa nuova puntata di Frequenze sui Generis. Come vi avevamo anticipato, oggi presenteremo il nuovo numero della Falla di novembre e quindi siamo strettissimi negli studi, abbiamo molto caldo. Siamo io e Viviana per diciamo la redazione come sempre. Ciao a tutte e tutti, oggi siamo in buona compagnia, addirittura abbiamo anche una bellissima e buonissima cagna, Luisa, ma soprattutto abbiamo i nostri amici e le nostre amiche della Falla. Ciao a tutti! Ciao! Ciao! Allora direi, iniziamo col presentare il perché siete qua e che cosa ci raccontate. Allora, parto io e sono Vincenzo, rivesto un po' il ruolo di direttore di questo foglietto. Innanzitutto, la Falla che cos'è? Segue una grande tradizione, che è quella dei fogli di informazione e di divulgazione LGBT. In Italia ne abbiamo conosciuti tanti, da Lambda a Babilonia, tutti quei giornali che hanno costruito la cultura e il pensiero di una comunità attraverso gli anni. La Falla segue un po' questo pensiero e soprattutto recupera un'abitudine che il Cassero aveva in passato, ma che poi aveva a un certo punto interrotto, un po' perché sappiamo, siamo in una radio e quindi sappiamo che l'editoria è un tema sempre caldo, pubblicare dei giornali è un costo e soprattutto la carta è obsoleta ormai. Però noi abbiamo voluto fare questo atto resistente e quindi riaffidare anche per chi verrà dopo di noi alla carta i nostri pensieri, le nostre idee. Lo abbiamo fatto anche conservando un ricordo della storia. Nell'Ottocento, dovete sapere che un certo Ulrich, un tedesco, che viene ricordato come il proto-attivista gay, fondò la prima associazione LGBT, un'associazione molto strana, che era un stile massonico, cioè le persone non si incontravano perché non erano visibili l'uno all'altra e comunicavano attraverso dei postini, e avevano fondato un manifesto, e il primo punto di questo manifesto era proprio fare divulgazione, fare informazione, fare cultura. E allora così nasce la Falla, che è già nel nome, come dire, un contenitore che vuol far star dentro un po' tutto. Il gioco, quindi dal maschile al femminile del titolo, ma la Falla è anche una crepa dello scafo, è qualcosa che ti obbliga, come dire, a prendere dei provvedimenti. E il numero che presentiamo oggi è quello di novembre, è un numero importante, prezioso, perché novembre è il mese del contrasto alla violenza. Il 21 novembre cade il TDOR, che è il Transgender Day of Remembrance, cioè il giorno in cui ricordiamo le vittime di transfobia, mentre il 25 novembre è la giornata internazionale di mobilitazione contro la violenza maschile sulle donne. E il numero di novembre della Falla quindi tiene dentro questi due appuntamenti e tiene dentro anche questo pensiero. Personalmente firmo un editoriale sulla Falla che vuole avere un po' il senso di riprendere il dibattito che ha scatenato la denuncia di Esargento, riportarla in un contesto che è quello non solo della violenza di genere, ma anche dell'hate speech che la denuncia di Esargento ha sollevato e che ha un nome molto particolare, se ricordate un po' la vicenda. Esargento, dopo aver denunciato una molestia, è stata lei stessa oggetto di un discorso d'odio sul web che potremmo definire slut shaming, cioè una donna quando come dire, mette in campo la propria libertà sessuale viene trattata dal mondo maschile come se fosse una puttana, e questo è un tema importantissimo di dibattito. Quindi ripartiamo da lì e riattraversiamo un po' quelli che sono i grandi temi anche su un raggio internazionale, perché questa è un po' la vocazione della Falla. E allora adesso, prima di andare avanti nel presentare gli altri contenuti della Falla che abbiamo qui davanti, la stiamo tutti un po' sfogliando ed è piena di altri articoli, però prima di andare avanti nel presentare, Giulia ci ha mandato, anche se non è qui presente in studio, una selezione musicale, e adesso Vivi ci leggerà di cosa si tratta. Sì, parliamo oggi del genere elettronico, quindi grande presenza di synth e ritmi incalzanti. Stiamo parlando di Anoni, già celeberrima cantante di Anthony and the Johnsons, che nel 2015, attraverso un comunicato stampa, dichiara a chiare lettere l'abbandono della denominazione maschile della propria persona, tornando ufficialmente sulle scene come Anoni. La voce fantastica, il timbro vibrato baritonale che la caratterizza rimane invariato. La sperimentazione invece si moltiplica, sia sul piano musicale, acquisendo maggiori sonorità elettroniche, sia dal punto di vista delle collaborazioni e partecipazioni, ad esempio con Bjork. Vi proponiamo alcuni brani dal suo album, primo album, in questa nuova fantastica veste. Rientriamo sulle note di Anoni. La nostra amica della falla, Elisa, prima ne parlavamo proprio di Anoni. Sì, volevo fare una specificazione rispetto a quanto hai detto prima introducendo la canzone. Tu hai detto prima già cantante degli Anthony and the Johnsons. È vero, era il nome del gruppo, però Anoni era Anthony, il fulcro del gruppo, perché poi le canzoni le scrive lei, certo. Le ha sempre scritte lei, che ha sempre avuto grossi problemi a identificarsi con il genere maschile, e all'interno di un suo percorso ha da qualche tempo annunciato pubblicamente che non si sente più di appartenere ad alcun titolo al genere maschile, e per sottolinearlo ovviamente ha cambiato nome. Grazie. Rientriamo invece sul tema del numero di novembre. In particolare, oltre al numero cartaceo, diciamo, io ho visto negli ultimi giorni anche sul blog che avete seguito moltissimo il festival Gender Bender. Adesso non so chi di voi ce ne vuole parlare, ma se volete presentarci meglio come lo avete seguito e anche come funziona questo blog. Sì, allora il blog della Falla nasce come archivio online degli articoli pubblicati sul cartaceo, perché, come ha spiegato prima Vincenzo, abbiamo scelto di questa cosa anacronistica di essere un giornale di carta, ambendo ad essere a produrre un oggetto che venga anche collezionato grazie al poster dell'artista che occupa di fatto metà del giornale. Però ci siamo anche rese conto che io uso il femminile come universale politico, ve lo dico, è ok. Ci siamo rese conto che volevamo che i nostri articoli avessero la possibilità di essere letti da un pubblico più ampio, quindi abbiamo creato il blog come diciamo contenitore di articoli già pubblicati. In realtà poi ci ha preso la mano e abbiamo iniziato a produrre articoli originali per il blog. Abbiamo iniziato con l'edizione 2016, cioè lo scorso anno, a seguire Gender Bender, e abbiamo proseguito quest'anno. Gender Bender è prodotto dal Cassero ed è il nostro editore, chiaramente, quindi potrebbe sembrare una mera marchetta, ma così non è, perché Gender Bender, a parte che è uno dei festival più noti anche a livello europeo che riflette sulle identità di genere attraverso l'arte, ma poi seguiamo anche quelle che riteniamo essere le produzioni culturali, festival a tema LGBT+, più importanti della città, a cui riusciamo ad andare. Per esempio in settembre abbiamo pubblicato diversi articoli di recensioni sul festival di cinema lesbico Sempre Fair Cake, e non escludiamo di fare altre operazioni di questo tipo per altri festival, altre grandi occasioni che possono esserci in città. Ecco, tornando ancora al numero di novembre, invece, ci sono molti articoli che si riferiscono anche all'estero, cioè il vostro non è solo, la vostra non è solo una copertura del locale, ma è anche uno sguardo proprio verso il mondo. E siccome il vostro è anche uno sguardo particolare, perché appunto il Cassero è l'editore ed è anche un'importante comunità LGBT+ a Bologna, a questo punto vi vorrei chiedere qual è il vostro sguardo sull'estero e qual è in particolare lo sguardo di questo mese sull'estero. Certo, e intanto mi presento, io sono Irene, anch'io faccio parte della Falla, anche se questo numero sono stata messa in punizione perché ero in ritardo il numero precedente, quindi non ho scritto. E sì, la Falla è un giornale che viene distribuito maggiormente a Bologna e quindi che vuole anche riflettere molto sull'ambito cittadino, ma allo stesso tempo prova a guardare, a dare uno sguardo anche all'estero, principalmente per due fattori. Uno, quello di mero paragone con la situazione italiana, per andare a vedere qual è invece la situazione LGBT negli altri paesi, e quindi vedere a livello legislativo, a livello anche culturale, quale può essere la situazione e a cosa si può ambire o a cosa bisogna ringraziare, ma anche per andare a rompere qualche pregiudizio che si può avere per determinate culture, determinati paesi. In particolare, per esempio, in questo numero sono molto interessanti due articoli che vanno proprio in questa direzione. Uno è un articolo su un gruppo di attivisti di una subcultura queer siriana, quindi nella situazione odierna è particolarmente interessante guardare anche a questi aspetti che magari uno non si aspetterebbe, neanche un attivista stesso. E l'altro è il nostro Cosmopolitan, che appunto va a guardare tutto l'ambito cittadino di varie città mondiali, e in questo caso parliamo di Città del Messico, che a quanto pare dalla nostra inviata, perché è proprio inviata, si è rivelata essere una città meravigliosa per le persone LGBT, per le persone femministe, per il movimento queer, dal punto di vista culturale, dal punto di vista di intrattenimento. Quindi lì si va proprio a smontare degli stereotipi, volendo. Altro articolo molto interessante, sempre nel numero di novembre, è invece quello che dà uno sguardo alla situazione indiana, che forse è un po' più famoso come argomento, perché quando vogliamo andare a vedere come si tratta il genere nel mondo, quando si va a vedere l'Oriente si riconosce un modo di approcciarsi all'ambito di genere molto diverso, cioè è un modo molto diverso di vivere l'identità in generale, e qui c'è un articolo che va proprio ad analizzare il tema del terzo genere, che a appunto noi in Europa stiamo forse un po' inseguendo, un po' analizzando ancora. In India, nella cultura indiana, è una cosa che risale alla cultura anche mitologica, religiosa, Shiva, quindi anche gli dei, e fino ad arrivare al giorno d'oggi con una vera e propria legge a riguardo. Quindi anche questo è un aspetto interessante. Ok, ora dopo che abbiamo approfondito appunto i temi di questo numero di novembre, tornando al tema iniziale, no? Il fatto che novembre è anche il mese dedicato alla violenza di genere, da in qualche modo esterna, da persona che tenta di fare giornalismo, tra l'altro so che anche tra di voi ci sono giornalisti comunque, però siete magari più interni anche all'ambiente, appunto dicevamo un'ottica diversa, no? Dalla radio, così come da qualsiasi testata, si cerca spesso di raccontare la violenza di genere. E moltissime volte si incappa in tantissimi problemi, no? Uno di questi è ovviamente la narrazione della violenza come raptus o la vittimizzazione. Però oltre a questo c'è anche il problema di come vengono strumentalizzati spesso i dati sulla violenza di genere. Si pensi al fatto che, per dire, molto spesso c'è l'idea che gli stupri siano per lo più, cioè vengono citati dati sugli stupri ad opera di migranti, per dire, che sembrano essere la gran parte degli stupri denunciati, quando in realtà poi comunque è tipo il 3% la percentuale di violenze che sono denunciate in Italia, quindi in ogni caso non si conta quanto sia la violenza sommersa, diciamo. Però dal vostro punto di vista, risponda a chi di voi vuole, poi potete anche rispondere tutti quanti, come bisognerebbe fare per raccontare la violenza? Cioè, quali sono i punti cruciali nella narrazione della violenza? Perché è importante parlarne, ma è anche importante farlo bene. E guarda, ti rispondo io con quello che mi è venuto in mente subito. Innanzitutto ti racconto una mia esperienza. Una volta sono andato a un seminario all'estero dove c'erano attivisti da tutta Europa e attiviste da tutta Europa. E in quel seminario ho incontrato una femminista basca che innanzitutto ha insistito per tutto il seminario in una maniera ostinata e lodevole, secondo me, a sostituire la parola vittima in ogni frase. E all'estero c'è questa cultura di non parlare di donne o di persone vittime di violenza, ma di parlare di donne o di persone che affrontano la violenza. Questo per uscire da un'ottica vittimistica, questo per ribaltare uno stereotipo. E c'è un altro tema che è molto legato a questo. Bisogna lavorare sull'empowerment delle persone che affrontano questo fenomeno, e questo è molto importante nel racconto. Ricordiamoci che la violenza è un dato quotidiano pervasivo di cui siamo pieni nei nostri contesti, ed è talmente ordinario, un po' come l'ossigeno nella stanza, che lo abbiamo normalizzato. Il vero racconto ci deve portare fuori da questa normalizzazione, farcelo diventare una cosa non ordinaria, strana, non desiderabile. Allora, tieni conto che nelle redazioni le 5S del giornalismo italiano, alla faccia dell'informazione alta, sono sesso, soldi, sangue, salute e sport. Quindi fondamentalmente le notizie entrano nell'agenda dei media a seconda di quanto possono essere ritenute solleticanti e papabili dal pubblico. All'interno di questo c'è una narrazione soprattutto italiana, e ovviamente concordo con quanto ha detto Vincenzo poco prima di me, sottolineo ancora un altro aspetto, l'ossessione tutta italiana per chi affronta la violenza, che viene considerata quasi in automatico una poco di buono. Questo avviene praticamente sempre. Il focus non si sposta quasi mai su chi perpetra la violenza, se non strumentalmente, quando, come dicevi tu, nei pochi casi percentuali ad agire violenza sono uomini migranti. Altrimenti non si sta a sottolineare più di tanto che la maggior parte delle violenze sono agite in ambito domestico o nella cerchia di conoscenze più strette, per esempio. E su questo tema potremmo parlare ancora per ore, ma purtroppo non abbiamo a disposizione un'infinità di tempo come a volte vorremmo, e quindi ci prendiamo un'altra piccola pausa musicale, sempre con Anoni, andando ad ascoltare Paradise, e subito dopo ascolteremo l'intervista a Nicoletta Landi, che per il numero di novembre della Falla ha scritto il pezzo di prima pagina, diciamo, se così si può dire, visto che comunque la costruzione della Falla è abbastanza particolare. In ogni caso adesso andiamo ad ascoltare Paradise di Anoni e poi subito dopo Nicoletta Landi. Siamo al telefono con Nicoletta Landi, antropologa ed educatrice, che firma il pezzo di prima pagina della Falla. Nicoletta, io vorrei partire dalla conclusione del tuo articolo, in cui tu riporti un episodio molto carino, in cui dici che una volta un ragazzo ti ha chiesto se il sesso orale è quello che si fa con le parole. Ora, gli adolescenti rappresentano un po' una fascia di pubblico a noi molto cara, e speriamo che siano in molte e molti adolescenti che ci seguono. E tu rispondi che il sesso si fa anche con le parole, che proprio dalle parole bisogna ripartire. In che senso? Sì, innanzitutto ciao a tutti e a tutte, grazie per l'invito, soprattutto alla Falla che mi ha dato la possibilità di parlare, diciamo, dalla sua prima pagina. E sì, nell'articolo io cito proprio questo episodio recente, tra l'altro, che mi serviva, insomma, un po' per dimostrare come i ragazzi e le ragazze molto spesso vivano un po' di ignoranza, no, rispetto ai temi del sesso, della sessualità, ma soprattutto della contraccezione, della prevenzione, eccetera. Ma mi serviva anche un po' per evidenziare quanto l'educazione della sessualità, che riguarda i ragazzi e le ragazze, ma non solo, no, riguarda anche noi adulti, passa soprattutto e debba partire proprio dalle parole, cioè dalla possibilità di parlare in maniera circolare, in maniera interattiva, aperta, equa e plurale, di tutti i temi, no, che riguardano la sfera della sessualità e dell'affettività. Quindi è proprio soprattutto in Italia, no, dove la situazione legislativa, no, e formativa, educativa, che riguarda l'educazione della sessualità è così frammentata e povera, è proprio dalle parole aperte che bisogna appunto partire, bisogna iniziare proprio dal trovare degli spazi di confronto parlato, no, su questi argomenti qua. Quindi il sesso orale, poi ho spiegato bene di cosa si tratta, quali sono i rischi e i piaceri del sesso orale, musicale, ma è anche un po' quello che si fa con le parole, sì, si entra in contatto con l'altro, con l'altra, anche a partire proprio dalle parole, soprattutto dalle parole che riguardano i piaceri, la responsabilità, il sesso, la sessualità, le relazioni e l'affettività. A proposito di parole, tu parli anche del modo in cui è stata usata l'espressione ideologia gender, tra l'altro sottolinei il fatto che questa espressione viene usata un po' come un'etichetta minacciosa e in particolare viene usata in difesa di quest'idea di famiglia tradizionale, no? L'abbiamo visto nel Family Day con le sentinelle in piedi, ci sono tantissimi esempi, però comunque io ti volevo fare una domanda a proposito della famiglia tradizionale, nel senso tu dici nel tuo articolo che appunto l'ideologia gender viene criticata in quanto c'è quest'idea che l'educazione sessuale possa in qualche modo minare la famiglia tradizionale. Io ti vorrei chiedere se davvero può secondo te in qualche modo minare la famiglia tradizionale e soprattutto se non può essere anche magari un fattore positivo. Ma guarda, innanzitutto c'è da dire che l'ideologia gender non esiste, diciamo questo all'inizio della risposta. Esistono chiaramente gli studi di genere, chi ascolta il vostro programma sicuramente sa di che cosa stiamo parlando, che quindi ideologia gender è un po' un'etichetta, è una forzatura, no? Proprio anche linguistica per etichettare percorsi educativi che raccontano in realtà la condizione delle famiglie, delle persone giovani e adulte oggi, che è molto poco tradizionale, tra virgolette. Poi in realtà la tradizione stessa è una forzatura, noi consideriamo tradizionale, naturale, quindi assoluto, delle esperienze specifiche connotate da un punto di vista storico, socioculturale. E quindi da un lato mi viene da dire che l'educazione alla sessualità o la cosiddetta ideologia gender, che ricordiamo appunto non esiste, ma intendiamola come messa in discussione di quello che consideriamo appunto come naturale, assoluto, quindi come regola, sia sì una cosa positiva, cioè se si tratta di, perché poi di questo si tratta, di parlare, come dicevo, di sessualità, di modelli di genere e di far un po' mettere in discussione delle forzature spesso che riguardano la vita di tutti e di tutte, ben venga, un ripensamento della tradizione. Certo è che fare educazione alla sessualità non vuol dire, come spesso viene detto, forzare i ragazzi e le ragazze a pensare o a parlare di certi temi, non vuol dire farli diventare omosessuali, come spesso mi è stato detto, vuol dire solo far trovare loro degli spazi in cui confrontarsi, ragionare, riflettere su quelli che sono i ruoli, le aspettative che riguardano il maschile e il femminile e trovare la propria dimensione, dando spazio, legittimità e gioia, mi viene da dire, no? A tutte le identità, a tutte le soggettività, al di là dell'orientamento, dell'identità di genere e quant'altro. L'educazione alla sessualità non è nient'altro che uno spazio di promozione della pluralità dell'identità di ciascuno. E quindi questa cosa dell'ideologia gender è molto interessante, sai, per chi fa ricerca sulle parole, su questi argomenti, però rischia di essere un'etichetta un po' pericolosa che tende anche un po' a impoverire il dibattito sociale e politico su questi temi. E noi ti ringraziamo, Nicoletta, grazie ancora per averci parlato di questo tema che è molto importante. Ricordiamolo, l'articolo si chiama Il sesso che si fa con le parole, l'educazione alla sessualità come antidoto al silenzio, ed è l'articolo di prima pagina della Falla. Sì. Grazie a voi e buon lavoro a tutti e a tutte. Ciao, grazie, buona giornata. Ciao. E siamo rientrate in studio, qui con noi ci sono ancora le amiche e gli amici della Falla e lasciamo a loro la parola per salutarvi. Sì, vi salutiamo e vi lascio i contatti della Falla. La Falla è su Facebook, su Instagram e su Twitter e poi chiaramente ha il nostro blog che è lafalladelcassero.wordpress.com e soprattutto la Falla cartacea la potete trovare in più di 100 posti a Bologna, quindi non ci sono scuse, leggetela. E ricordiamo anche i nostri di contatti, siamo su Facebook, cercateci Frequenze sui Generis, potete anche scriverci via mail frequenzesuigeneris@gmail.com e ovviamente potrete anche riascoltare il podcast che durante la settimana pubblicheremo sul sito www.radiocittafugico.it e poi condivideremo sulla nostra pagina Facebook, che se non state già seguendo dovete seguire, e vi invitiamo anche a scriverci perché non sappiamo ancora di cosa parleremo lunedì prossimo, quindi consigli, suggerimenti, domande sono sempre apprezzati. E a parte questo non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo lunedì, sempre dalle 2:30 alle 3, sempre sul 103.1 FM. Ciao! Ciao! Ciao! It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. World, I wanna see it boil. I wanna see this world, I wanna see it boil. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. Dogs crying for water. I wanna see the fish go back.